Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Lo faccio aspettare in macchina, tanto è questione di pochi minuti. Confesso che per un attimo penso che quando tornerò la macchina non ci sarà più. Ma è solo un attimo, e quando torno la macchina c'è ancora. Durante il tragitto lui mi racconta tutta la sua storia. Mi chiamo Matteo, ho 47 anni, abito a Malcisne, un paese del lago di Garda, che io considero il paese più bello del mondo, e faccio l'agente di polizia locale, anche se io preferisco dire ancora il vecchio termine vigile urbano. I pregiudizi sono tra le cose a più a buon prezzo che ci siano. Costano veramente poco, sono facili da usare e sono subito pronte all'uso. Buongiorno a tutti, sono le 16:07, questa è Radio 24, il programma si chiama Voi siete qui. Ogni giorno raccontiamo una storia, ogni giorno c'è qualcuno che ha voglia di raccontarla, voglia di condividerla. Noi la prendiamo, la facciamo su e la raccontiamo direttamente a voi. La facciamo su e la raccontiamo direttamente a voi. Dalle 16 alle 16:45 tutti i giorni, da lunedì al venerdì, e in podcast ovviamente se vi perdete dei pezzi. Se vi perdete dei pezzi le trovate tutte intere, mi piaceva dire pezzi, l'ho ripetuto, le ritrovate tutte intere sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui, o altrimenti nella sezione podcast della radio. O altrimenti ancora vi abbonate ad iTunes gratuitamente, ci avete le ultime 5 puntate che si scaricano da sole. I pregiudizi, dicevo, la storia di Matteo si intitola Pregiudizi, anche se in realtà è proprio una piccolissima storia di pregiudizio, però lui stesso ha voluto nominarla in questo modo, ha voluto titolarla così. I pregiudizi appunto sono una cosa che sono talmente gratuite, i pregiudizi, che è difficile farne a meno, è difficile rinunciarci. Ecco perché oggi, in un martedì qualunque di inizio marzo, 5 di marzo per l'esattezza, mi piacerebbe che voi metteste un attimo la mano sul cuore e raccontaste: sì, guardate, io è vero, sono anche una persona intelligente, penso di essere anche una persona intelligente, penso anche di avere una cultura, magari no, penso di non essere per niente intelligente, ma nonostante tutto io ho questo inguaribile pregiudizio. 349-238-6666 oppure sul profilo Facebook del programma, che è Voi siete qui Radio 24. Un pregiudizio verso chi o verso cosa o su che cosa? Qual è il pregiudizio che avete? Ad esempio Lucia scrive: ho un pregiudizio nei confronti di chi non ha frequentato il liceo. Perché poi sono sempre molto intimi i pregiudizi, hanno a che fare con noi strettamente e con quello che non è uguale a noi, ovviamente. Cristina: ho dei pregiudizi verso chi dimostra maleducazione. Però Cristina, non è un pregiudizio, cioè la maleducazione è un dato di fatto, se uno è maleducato ci si fa un'opinione. Invece il pregiudizio è qualcosa che arriva prima del giudizio, cioè prima di aver avuto la possibilità di verificare, uno c'ha già quell'idea lì: no, guarda, quello lì è un imbecille, no, guarda, lascia fare, ma non lo conosci. È un po' come mio fratello è figlio unico, perché dice che non si può criticare un film senza prima vederlo. Ecco, la stessa cosa, un pregiudizio è quella roba lì, che uno non ha visto quel film, non ha visto un film di Brizzi, ma dice già: boh, mamma mia, ma ti pare che vado a vedere un film di Brizzi? Alzi la mano qui dentro. 349-238-6666. Filippo: il mio pregiudizio più inguaribile è quello per cui le ragazze che hanno le unghie rifatte sono persone superficiali. Ma sei un genio, Filippo. Cioè, quindi, fammi vedere la foto, non capisco quanti anni hai, perché è una foto assurda. Emanuele sulla scia: che le bionde siano oche. Questi però sono proprio pregiudizi. Però, giustamente, uno si confessa, uno si apre ed è giusto accettarlo. 349-238-6666. Stefania: ho pregiudizio verso quei vecchi che dicono: sono 30 anni che faccio le cose così. Tra me e me penso che possono magari aver sbagliato per 30 anni di seguito, e questo non è male, guarda. Per piacere, sono 30 anni che faccio sta cosa, non vorrei insegnarmela tu. Ma, boh, magari sì. 349-238-6666, il vostro più inguaribile pregiudizio, proprio dal cuore, ve lo chiedo. E non ci saranno giudizi nei confronti dei vostri pregiudizi. Questa è la storia di Matteo. Mi chiamo Matteo, ho 46 anni e faccio il vigile urbano. Lo faccio in un piccolo paese di provincia. Molti miei colleghi storceranno il naso. A loro non piace il termine vigile urbano. Fa molto Alberto Sordi e Lino Banfi. Preferiscono agente di polizia locale, sa più di Clint Eastwood e Bruce Willis. E a dire il vero è il termine corretto per la burocrazia italiana. A me però piace vigile urbano. Allora, ho cominciato per caso, ero disoccupato e qua sul lago cercavano dei vigili stagionali. Ho fatto domanda, e ho vinto il concorso, sono passato e poi il lavoro mi è piaciuto. Cosa mi piace del lavoro del vigile? Innanzitutto perché si è a contatto con la gente e poi lavorare in un piccolo paese consente anche una certa autonomia. Una delle tante cose che fa il vigile di un piccolo paese di provincia è quella di andare in città una volta a settimana a fare commissioni per il comune. Andare in questura a ritirare passaporti e licenze di caccia, in prefettura per le carte d'identità, portare alla sovrintendenza i beni ambientali o i progetti edilizi da approvare. Di solito ci vado il giovedì mattina. Quel giovedì è di giugno e fa un caldo eccezionale. Per fortuna in auto c'è l'aria condizionata. La prima tappa è alla questura. All'uscita mi dirigo verso il parcheggio per raggiungere l'auto. Il marciapiede è ampio, con gente di ogni parte del mondo che entra o esce o aspetta pazientemente. Mi si avvicina un giovane, capelli corti, barba rada, magliette e pantaloni scuri. Dall'aspetto è nordafricano. Ha una stampella cromata e una mano come rattrappita. Penso che voglia chiedermi l'elemosina, penso che però è strano, sono in divisa e siamo davanti alla questura, penso che però forse è un tipo che non si fa troppi problemi. In un pessimo italiano invece mi chiede dov'è la stazione degli autobus. Tiro un sospiro di sollievo e un po' mi sento in colpa per aver pensato male. Gli dico che la stazione non è lontanissima, gli indico la strada. Certo però che nelle sue condizioni non è facile arrivarci. Mi dice che ha provato a chiedere a un po' di gente, ma nessuno gli ha dato un passaggio. Lo guardo. Nel mio giro in città non devo passare dalla stazione, però mi fa un po' pena. Gli dico di aspettarmi lì, che ce lo porto io. Non è poi una deviazione troppo lunga. Vado a prendere l'auto e passo davanti alla questura. Lui è lì, che aspetta. Lo faccio salire e un po' mi pento subito di quella buona azione, perché forse per la scarsa possibilità di lavarsi, o forse solo perché fa un gran caldo, lui però non ha proprio un ottimo odore. Comunque ormai sono in ballo. La strada per arrivare in stazione non è lunga, pochi chilometri attraverso il centro. Mi fermo davanti alla sede dei colleghi per una delle commissioni. Lo faccio aspettare in macchina, tanto è questione di pochi minuti. E confesso che per un attimo penso che quando tornerò la mia macchina non ci sarà più. È solo un attimo però. Torno e la macchina c'è ancora. Durante il tragitto mi racconta la sua storia. È da 10 anni in Italia e da 5 in città. Quando è arrivato era sano come un pesce, ma qualche anno dopo ha avuto un'ischemia cerebrale che lo ha ridotto in quello stato. Un ictus, così giovane, gli chiedo. Le malattie non guardano l'età di chi colpiscono, mi risponde. È una bella risposta. Comincia a starmi simpatico. Io penso che purtroppo i pregiudizi si radicano dentro di noi, quindi tutti bene o male ne siamo coinvolti. Quindi c'è quell'attimo irrazionale dove hai il pregiudizio. Dopo, almeno io cerco subito, immediatamente, di cominciare a pensare, no, è una cosa irrazionale, comincio a ragionare, a applicare la ragione e magari a pensare, e se mi trovassi io nella sua condizione, se fossi io nei suoi panni, come mi comporterei? Mi racconta che è sposato, sua moglie è in Marocco e in agosto darà alla luce il suo primo figlio. Lui è stato in questura proprio per sapere se poteva tornare in Marocco e quanto poteva fermarci. Fermarci, sì, perché stava rinnovando il permesso di soggiorno e non gli era ancora arrivato quello nuovo. Intanto arriviamo in stazione. Lo porto fino alla fermata degli autobus. Scendendo mi chiede come mi chiamo. Matteo, gli rispondo. Devo cercare il significato di Matteo, mi dice. Gli rispondo che lo so cosa significa. Significa uomo di Dio. Bene, allora sono fortunato, mi dice, perché ho trovato il nome per mio figlio, Abdullah, uomo di Dio. E quando verrò in Italia lo chiamerò Matteo. Per un attimo rimango senza parole, poi gli auguro buona giornata e riparto. Ma nonostante il caldo, non apro il finestrino. Il titolo, come vi dicevo, della storia di Matteo è Pregiudizi. E perfino l'oggetto della sua mail portava questo titolo. La cosa particolare di questa storia è che probabilmente, quando lui l'ha raccontata, moltissime persone gli hanno detto che aveva fatto bene ad accompagnare quel ragazzo, ma che anche loro, lasciandolo da solo in auto, avrebbero avuto paura di tornare e non trovarla più. Perché la povertà e la delinquenza spesso sono associate tra loro, e a sentirle sempre nominate insieme alla lunga qualcosa ci entra in testa. Io penso però che si debba avere un po' più di clemenza nei confronti, nei nostri riguardi, quando parliamo di pregiudizi. O meglio, non nei confronti dei pregiudizi, ma nei confronti nostri che stiamo provando quel pregiudizio. Alla fine, farsi un giudizio prima ancora di poter valutare qualcosa o qualcuno è un atto di ignoranza o di scarsa conoscenza, chiamatela come volete. È un modo per avere sotto mano le cose che non conosciamo come se invece le conoscessimo. Un modo per dare forma allo sconosciuto, qualcuno direbbe per dare ordine al caos. Io ho avuto e ho tuttora un'infinità di pregiudizi, ovviamente ingiustificati, perché questa è la caratteristica intrinseca di un pregiudizio, quella di non avere nessuna giustificazione, di non avere un appiglio concreto con la realtà, al massimo un sentito dire da qualcuno o da qualche mezzo di informazione. E continuo a lottarci quotidianamente con questa cosa dei pregiudizi. Da ragazzino però sono stato cintura nera di pregiudizi. E ricordo che la prima volta che qualcuno mi ha fatto notare quanto fossero stupidi, lo ha fatto facendosi una risata e sostanzialmente mandandomi a quel paese. Avevo attorno ai 20 anni e venivo dal mio paese in provincia e feci il mio primo lavoro in teatro con una compagnia di una decina di persone. Eravamo a Udine, in Friuli. Tra queste persone c'era un ragazzo siciliano di Palermo, per l'esattezza, Rosario, di un paio d'anni più grande di me. Io non ero mai stato in Sicilia, tantomeno a Palermo, e ovviamente non mi c'ero nemmeno informato a riguardo. Avevo solo visto qualche serie televisiva tipo La Piovra, o avevo guardato servizi al telegiornale in cui c'era della gente che sparava ad altra gente per la strada per regolare dei conti, dicevano i giornalisti. Il tutto ovviamente condito qua e là da qualche parola tipo mafia, declinata nelle maniere più terrificanti possibili. Ricordo che Rosario mi piaceva molto e iniziai a parlarci, e dopo qualche giorno di prova eravamo praticamente sempre insieme. Finché una sera, mentre uscivamo dal teatro per andare a mangiare qualcosa, cominciamo a parlare dei nostri luoghi di origine. E mentre io raccontavo del mio paese e lui della sua città, cioè di Palermo, a un certo punto mi fermai e me ne uscii con questa frase: «Ma Rosario, ma scusami, ma tu, a Palermo, hai paura di camminare per la strada?» E ricordo benissimo la sua espressione. La faccia di uno che pensa di parlare con una persona e a un tratto capisce che sta avendo a che fare con un imbecille. Cercò di capire se stessi scherzando oppure no, poi quando realizzò che non era così mi disse: «Ma vai a cagare!» E si mise a ridere. Oggi Rosario è un amico fraterno e lo ringrazio per il tono canzonatorio che usò quel giorno con me, perché in quel modo capii che Palermo non faceva paura, che quello che si dice di un posto spesso è solo la parte più facile, più comoda da raccontare, e che ai pregiudizi non bisogna dare troppo credito, bisogna prenderli in giro e non gonfiarli di troppa importanza. Ma mentre fino ad oggi mi sono sempre vergognato di raccontare questa storia, grazie alla storia di Matteo, il nostro vigile urbano, mi sono reso conto che è giusto avere un po' di clemenza verso se stessi quando si hanno dei pregiudizi. Perché una volta capito che sono storie raccontate da altri, ci fanno venire voglia di viverle noi, quelle storie. Inventa un giorno che non c'è, tra il sabato e il venerdì, e ti porterò con me, ti mostrerò il mio paese. Tutti scrivono canzoni, nessuno che sappia parlare. Sono Mario da Taranto, ho pregiudizio per le persone che fanno tanti complimenti anche quando li fanno a me. Fabio, il mio pregiudizio sono le donne con i capelli rossi, le trovo tutte cattive. Abbiamo detto che non facciamo commenti, giusto? No, no giudizi sui pregiudizi. Il mio pregiudizio è per gli automobilisti col cappello. Max Carro Attrezzi, si firma Max Carro Attrezzi. Quando mia figlia da piccola ha iniziato a prendere i pennarelli per disegnare con la mano sinistra, ho scoperto di avere un pregiudizio contro i mancini. 349-238-6666. Si spazza dal genere alla provenienza, appunto addirittura alla mano con cui si scrive quando si parla di pregiudizio. Non c'è una regola, ovviamente, per i pregiudizi. Non ce n'è. A proposito di questo, a proposito dei pregiudizi e della regola, noi abbiamo preso il racconto di Matteo solo semplicemente come un pretesto per parlare di pregiudizi, perché, ripeto, il pregiudizio che c'era nel suo racconto era veramente molto labile e durava il tempo di un viaggio in automobile. Pronto, Matteo? Eccomi qua. Ciao, come stai? Bene, grazie, un po' raffreddato. Dove sei, Matteo? Adesso sono a casa, ho lavorato la mattina e... Ma non sei in divisa, quindi? Ho fatto in tempo a cambiarmi. Ah, ok. Già ti immaginavo con la tua bella divisa blu, giusto? È blu per tutti è la polizia municipale? E cambia da regione a regione. È una legge regionale che stabilisce i colori della divisa. La vostra qual è? Sì, pantaloni blu scuro, camicia azzurra. Ok, classica. Senti, prima di entrare nel merito della storia, tu dicevi che di fatto il giovedì svolgi questi, più o meno queste commissioni per il comune, no? Vai a fare cose di carte d'identità, cioè vai in città. Dove, per città, di quale città parliamo, scusami? Verona. Di Verona, ok. Invece la vita di un vigile urbano, come ci chiamiamo, vigili urbani o polizia municipale? Allora, il termine corretto sarebbe polizia locale. Locale, ok. Municipale. Okay. Preferisco vigile urbano. Va bene. Cioè, le tue mansioni, in base a cosa si decidono? In base all'anzianità? In base al numero di colleghi? Dipende da comune a comune. I comuni grossi, tipo le città, allora hanno i vari reparti, quindi c'è il reparto che si occupa di codice della strada, il reparto che si occupa di abusivismo edilizio, di ordine pubblico, eccetera. Tu? Io sono in un comune piccolino della Valpolicella, siamo solo in due e quindi facciamo un po' di tutto. Cioè, quindi fate da... come si chiama quando si accompagnano i bambini a scuola? Esatto, attraversamento scuole. Attraversamento scuole, ok. Quindi le classiche multe, abusi edilizi, inquinamento... Tutto quello che può capitare in un piccolo paese. Qual è stata l'ultima multa che hai dato? Perché in un piccolo paese il vigile urbano lo conoscono tutti, quindi poi ti vengono a prendere. Oh, sta multa, l'avevo messa lì 10 minuti, 10 minuti per andare dal commercialista. Sì, ho fatto sì, ieri un divieto di sosta posto invalidi, quindi... Ah, vabbè, lì è sacrosanto, dai, sei una carogna se la metti al posto invalidi. Quant'è la multa per parcheggio al posto invalidi? 84 euro e due punti sulla patente. Ma scusami, di solito però il divieto di sosta non ti tolgono i punti sulla patente, giusto? Per i posti invalidi c'è anche la detrazione. Ok, andiamo a quel giorno, Matteo, andiamo all'incontro con... Ti ricordi come si chiamava? Gliel'hai chiesto? Ma sai che ora che mi ci fai pensare? No, o forse me l'ha detto ma non mi ricordo. Quanto tempo fa era esattamente? Era la scorsa estate? La scorsa estate, proprio giugno. Tu non hai più avuto notizie, non sai se c'è un bambino che è nato in Marocco che si chiama Matteo? Potrei fare un'indagine. No, ovviamente non hai più saputo nulla, no, di lui? No, non l'ho più visto. Ogni tanto ci penso, me lo vedo in Marocco con la moglie e il pargoletto. Senti, dimmi invece se tu hai, visto che di fatto fai una sorta di coming out, no, riguardo ai pregiudizi, dici, racconti questa storia perché parli di lui e dici ho avuto questo pregiudizio che è stato poi fugato dall'esperienza. Tu hai dei particolari pregiudizi, visto che oggi stiamo chiedendo un po' a tutti se si hanno dei particolari pregiudizi verso chi o verso cosa, in assoluto, in generale? Io penso, come dicevo anche nel punto, che i pregiudizi siano un po' innati in noi. Ecco, vedi, in fondo il pregiudizio è un sistema di difesa che il nostro cervello ha elaborato nelle migliaia d'anni in cui i nostri antenati andavano a caccia nelle foreste. Addirittura, dove... credevo fosse una questione culturale, tu invece ne fai proprio una questione di sopravvivenza quasi. Esatto, perché in quei tempi là, quando i nostri antenati vedevano una persona diversa, perché sì, magari era vestita diversa, perché aveva faceva una paura e quindi ci si doveva difendere in sostanza. Esatto, probabilmente era un incontro pericoloso e allora questo è rimasto anche in noi, Questa teoria della caccia mi piace tantissimo. Matteo, scusami, mi dici invece, poi ti devo salutare, qual è il pregiudizio più grande nei confronti delle forze dell'ordine? Anzi, no, nei confronti della polizia locale. Beh, che facciamo solo multe, ovviamente. E che le fate per far cassa addirittura. Ecco che questo è falso, perché la legge dice che i soldi che incassiamo per fare le multe devono essere usati per costruire le strade, ad esempio. Quindi non è vero che a fine mese si alza il livello delle multe perché il comune fa è una leggenda, è un pregiudizio. È un pregiudizio anche quello. Matteo, ti ringrazio molto per la storia e la chiacchierata. In bocca al lupo per tutto. Grazie anche a te. Ciao, buona giornata. Altrettanto, ciao. Ciao, ciao, ciao. A proposito di pregiudizi, penso che chi si vesta di marca sia antipatico. Voi siete qui. Ha una bella pelata luccicante al sole, Matteo, nella foto che ci ha mandato, che trovate sul nostro sito. È sulla terrazza di un rifugio di montagna. Lo si vede perché siamo in montagna e perché siamo all'aperto, e di fianco c'è l'ingresso di una specie di bar che assomiglia di più a un rifugio. C'è appunto un sole incredibile, la foto è virata seppia, quindi non si riconoscono bene i colori. Lui ha, ripeto, una bella pelata lucidissima e una barba tenuta tagliata, ordinata, che anche un vigile urbano si può permettere, evidentemente. Pregiudizio: credevo che i vigili urbani non potessero avere la barba. Guarda dritto in camera ed è sorridente. Pregiudizio, sostantivo maschile. Opinione preconcetta, capace di far assumere atteggiamenti ingiusti, specie nell'ambito del giudizio o dei rapporti sociali. Danno che può derivare da un atto o da un comportamento. Nel diritto romano, sezione precedente il giudizio e tale da influire talvolta sulle decisioni del giudice competente. Etimo dal latino prejudicium, derivato di judicium, giudizio, col prefisso pre. Data, seconda metà secolo XIII. Quando c'è il latino, Alessandra De Luca va fortissimo, non sbaglia un accento. Prima di tornare ai pregiudizi, abbiamo un grande regalo, speriamo, insomma, di considerarlo tale e di considerarlo giusto, per tutti voi. Visto che spesso ci chiedete quali sono le basi musicali che utilizziamo sopra, come tappeti musicali. Sì, ci arrivo. Ci chiedete quali sono le basi che utilizziamo sopra i nostri racconti e quali sono i brani musicali che mandiamo in onda ogni giorno, che in realtà vi carichiamo anche sulla nostra pagina del sito Radio 24, ma evidentemente non basta. Abbiamo creato sul nostro canale YouTube delle vere e proprie playlist totalmente comprensive di basi musicali che esistevano già dall'anno scorso, ma soprattutto tutti i brani, a partire dal 5 di settembre, giusto? Dall'inizio di questo programma fino ad oggi, grazie al lavoro di Paolino Corleoni e di Tiziano Bonini, vi trovate un elenco di... quante canzoni sono? Saranno tra le 2 e le 300 canzoni già semplicemente cliccabili da YouTube. Non dovete fare il link, andare a cercarla sul nostro canale, lo carichiamo dopo sul profilo Facebook, ok? Così trovate tutto lì. Andate sul profilo Facebook del programma, ma anche sul nostro sito, alla nostra pagina, dove trovate la foto. Voi siete qui, Radio 24. Sono dei canali di YouTube, quindi se cercate Voi siete qui, anche sul canale YouTube dovreste trovarlo. Vi ripeto, tutti i brani che abbiamo mandato in onda, tutte le basi che trasmettiamo sotto i tappeti, come tappeti musicali. 349-238-6666. Ho tre figlie, sono un donatore di sangue, quasi astemio, mi piace perché si presenta perfettamente, 770 km al giorno per lavoro. Fino ad un anno fa, capelli lunghi, un metro circa, curati due volte alla settimana dal parrucchiere, eppure sempre controlli da parte di polizia e altri sguardi strani da parte dei colleghi. Era un pregiudizio? Ma Roberto. E poi Francesco da Padova: ho dei pregiudizi per gli uomini che escono da casa con le ciabatte. Guarda, figurati Francesco, io ho dei pregiudizi nei confronti di chi mette le ciabatte anche in casa, quindi sei in ottima compagnia. E poi Mohammed da Mirabello mi scrive: purtroppo nella zona dove abito, a Mirabello, all'inizio tutti hanno paura, hanno una paura che non finisce più, mi scrive. Pensano che li voglia derubare o fargli del male. Poi quando mi conoscono non vogliono più staccarsi. Mohammed, questa è veramente una iattura. Cerca di non parlare con nessuno, altrimenti ti porti dietro degli strascichi. E poi pregiudizi verso gli arricchiti che se la tirano, Sandra, verso le persone con i capelli rossi. Ho pregiudizi verso zingari, neri, albanesi, rumeni. Wow, l'amplena hai fatto qua, proprio li hai infilati tutti. È tutta la vita che sfido pregiudizi. Dal portare i capelli lunghi e combattere con le mie scelte l'immagine che si dà, portare vestiti da donna, ho l'auto ricoperta da firme di amici e cose così. Cioè, posso immaginare che ci siano quantomeno degli sguardi strani nei tuoi confronti. Mi chiamo Reza, spero di pronunciarlo bene. Sono un medico del pronto soccorso e vedo spesso i miei colleghi e i miei collaboratori trattare con superficialità, dandogli del tu, gli utenti di nazionalità straniere, soprattutto dell'est e nordafricani. È vero che c'è un po' questa roba del dare del tu agli stranieri, perché forse, non capiranno. Ascolta, mi devi portare l'altro documento. Questo magari c'ha 60 anni, potrebbe essere tuo padre. No, guarda, ehi, aspetta un attimo. De lei... della serie, questa giustamente, quando dicevo che al mio amico Rosario ho detto ma tu hai paura a girare in giro a Palermo a piedi per strada, Mari mi scriva della stessa serie ma in Marocco ci sono i supermercati, mio marito è marocchino, ce lo sentiamo chiedere ogni volta. Parlavamo di pregiudizi, visto che una sorta di pregiudizio storico esistente da sempre, da anni, quando si parla di popolazioni è il pregiudizio nei confronti degli ebrei, è l'antisemitismo. C'è uno scritto che è uno scritto di Sartre del 1946 che si intitola proprio L'antisemitismo, riflessioni sulla questione ebraica. Voglio leggervi un pezzo che racconta sì chi è l'antisemita, ma è come se raccontasse chi è quello che ha pregiudizi in assoluto e chi è comunque in assoluto razzista. L'antisemita ha paura di scoprire che il mondo è fatto male, perché allora bisognerebbe inventare, modificare. E l'uomo si ritroverebbe padrone dei propri destini, provvisto di una responsabilità angosciosa e infinita. Perciò lui localizza nell'ebreo tutto il male dell'universo. Se le nazioni si fanno guerra, è l'ebreo che sta lì dietro ai governi, e soffia la discordia la causa. Così l'antisemitismo spiega il corso del mondo con la lotta del principio del bene contro il principio del male. Tra questi due principi non è concepibile nessun accordo. Bisogna che uno dei due trionfi e che l'altro sia annientato. Ecco, a questo punto risulta possibile tracciare un profilo dell'antisemita. Questo tipo siamo ora in grado di comprenderlo. L'antisemita è un uomo che ha paura. Non degli ebrei, certamente, ma di se stesso, della sua coscienza, della sua libertà, dei suoi istinti, delle sue responsabilità, della solitudine, del cambiamento della società e del mondo. Ha paura di tutto meno che degli ebrei. È un codardo che non vuole confessarsi la sua viltà, un assassino che rimuove e censura la sua tendenza al delitto senza poterla frenare e che pertanto osa uccidere nascosto dall'anonimato di una folla. Uno scontento che non osa rivoltarsi per paura delle conseguenze della sua rivolta. Aderendo all'antisemitismo, non adotta semplicemente un'opinione, ma si sceglie come persona. Sceglie la permanenza e l'impenetrabilità della pietra, l'irresponsabilità totale del guerriero che obbedisce ai suoi capi, ed egli non ha un capo. Sceglie di non acquistare niente, di non meritare niente, ma che tutto gli sia dovuto per nascita. Sceglie infine che il bene sia belle fatto, fuori discussione, intoccabile. Non osa guardarlo per timore di essere indotto a contestarlo e a cercarne un altro. L'ebreo qui è solo un pretesto. Altrove ci si servirà poi del nero o del giallo. Ecco, ciò che proponiamo qui è un liberismo concreto. Intendo con ciò che tutte le persone che collaborano col loro lavoro alla grandezza di un paese hanno pieni diritti di cittadinanza in questo paese. Ciò che dà a loro questo diritto non è il possesso di una problematica e astratta natura umana, ma la loro partecipazione attiva alla vita della società. Ciò significa dunque che gli ebrei, come gli arabi o i neri, dal momento che sono associati all'impresa nazionale, hanno il diritto di interloquire sul suo funzionamento. Sono cioè cittadini. innanzitutto ringrazio Beppe che scrive: in Marocco ci sono i supermercati Marianne e Carrefour. E poi ringrazio Filippo che scrive: ho pregiudizi su chi, parlando di omosessualità, inizia la frase dicendo io ho molti amici gay, che è un po' come dire guarda io non sono razzista. Il mio pregiudizio è verso le persone con lo smalto delle unghie sbeccato, scrive Sissi. E poi ancora, è il migliore di oggi: mia moglie è americana, quando è partita per venire in Italia le hanno chiesto vai in Italia, ma le hanno le lavatrici? Grazie a Paolino Corleone, Tiziano Bonini e Margherita Ina. Grazie soprattutto a Matteo. La storia di oggi era